da poco e non ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, yeah. Che cosa vuoi di più da me, tu vuoi quel grazia cuore che anch'io fortemente vorrei. Siamo fuori.